Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Deciderà il Consiglio regionale, così il governatore Fedriga, dopo il no della Consulta al terzo mandato, che però esclude ora le regioni autonome. Chiesto l'ergastolo per Vasquez di Pre per l'omicidio di Capodanno a Udine. La difesa continua a sostenere la preterintenzionalità. Chiesa in rosso a Trieste, 4 milioni di debiti per la sola diocesi. Il vescovo Trevisi, investimenti immobiliari quando i tassi erano alle stelle. Vendevano auto di lusso senza dichiarare nulla al fisco. Nell'Isontino, evasione da quasi 4 milioni di euro a fronte di 800 mila euro di IVA non pagati. Festa della polizia, Pordenone, il bilancio del questore Solimene, più attività di prevenzione ma aumentano gli arresti per droga e i fogli di via. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. In apertura alla politica e le reazioni in regione alla sentenza della Consulta sul terzo mandato del governatore della Campania De Luca, che apre nuovi scenari e dinamiche all'interno dei partiti di maggioranza anche in regione. La sentenza della Consulta è importante perché riafferma il principio di sovranità delle regioni e province autonome sul nodo del terzo mandato dei presidenti. Sono sulla stessa linea il governatore Fedriga e il segretario regionale della Lega Dreosto sul tema che agita la polemica nazionale. Sul terzo mandato, dicono entrambi, deciderà il Consiglio regionale in autonomia nel quadro della prossima legge elettorale. La segretaria regionale di Forza Italia Savino stempera i distinguo sul tema nel centrodestra e sottolinea come anche alla luce di questo ci sarà modo di avviare una riflessione all'interno della maggioranza. La Consulta si è espressa solo sulla legge della Regione Campania, dichiara invece il deputato e segretario regionale di Fratelli d'Italia Rizzetto, il cui partito a livello nazionale si è sempre detto contrario al terzo mandato. La distinzione della Consulta, che ha già portato la provincia autonoma di Trento ad approvare la norma che consente il terzo mandato, non piace affatto invece al vicino di casa e compagno di partito di Fedriga e Dreosto, Zaia. Il governatore del Veneto la definisce un'ipocrisia e parla di sistema dalle evidenti contraddizioni e disparità. Dal fronte delle opposizioni, per la segretaria regionale del PD Conti, la sentenza della Corte conferma quello che il Partito Democratico dice da tempo: l'accentramento dei poteri nelle mani di una persona deve prevedere tempi ridotti, è una questione di equilibri democratici, rimarca. La decisione della Consulta va rispettata, rilancia il capogruppo pentastellato al Senato Patuanelli, ribadendo la netta contrarietà al terzo mandato per questioni di illegittimità costituzionale e politiche. Il potere di un presidente di regione protratto per 15 anni può costituire un elemento pericoloso, aggiunge. Parla di una Lega ossessionata dal cambio delle regole elettorali a suo favore il capogruppo in consiglio regionale di Patto per l'autonomia Moretuzzo, ribadendo che il limite di due mandati in un'istituzione come il consiglio regionale è un contrappeso necessario per garantire democraticità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. È improbabile che in brevissimo tempo sia emessa la sentenza, ma quella di oggi a Udine è l'ultima udienza del processo per l'omicidio del laghetto Alcione. L'imputato rischia l'ergastolo, i giudici dovranno decidere se accogliere la tesi dell'omicidio volontario perorata dal pubblico ministero o quella della difesa di un gesto istintivo senza la volontà di uccidere il 31enne Ezechiele Mendoza Gutierrez all'alba del 1 gennaio 2024. La PM Elisa Calligaris ha chiesto nella sua ringa il massimo della pena, l'ergastolo per Anderson Vasquez di Pre, imputato per l'omicidio di Capodanno 2024 di Ezechiele Mendoza Gutierrez, morto per shock emorragico dopo un colpo inferto alla gola con un calice di vetro. Ha parlato di omicidio volontario perpetrato con dolo diretto, la PM. Anderson avrebbe accettato, cioè, la possibilità di grave ferimento o di morte come conseguenza del suo gesto. Elementi oggettivi sarebbero la repentinità dell'azione in un contesto di festa apparentemente tranquillo, il mezzo utilizzato, per la PM un calice rotto, poco prima da utilizzare come arma bianca impropria, e come sia stato impugnato dalla base, la zona del corpo colpita, vitale, ovvero il collo, la forza lesiva, lunghezza e profondità della ferita che ha raggiunto le vertebre, il movimento infine delle mani. Durata 2 ore la requisitoria dell'accusa, 3 le aggravanti chieste, evasione dei domiciliari, i futili motivi e la minorata difesa. Nessuna attenuante generica per un soggetto, ha sottolineato la Calligaris, che non ha prestato alcun soccorso ad Ezechiele, era già evaso dai domiciliari, non doveva neanche essere lì, era peraltro detenuto per falsa testimonianza, non si è mostrato pentito, non ha reso confessione, ma solamente delle dichiarazioni perché non si aspettava ci fossero registrazioni di telecamere a smentirlo. La difesa invece sostenuto in dibattimento nelle 5 udienze precedenti si sia trattato di una reazione istintiva, che Anderson non avesse volontà di uccidere, che il bicchiere si sia rotto accidentalmente. La differenza tra omicidio volontario e preterintenzionale, e su questo si gioca l'ergastolo, ha rimarcato Calligaris, è la totale assenza di volontà omicida. Quella di oggi è l'ultima udienza programmata. Adesso è in corte d'assise la volta delle parti civili, gli avvocati dei genitori, Roberto Mete e Luca Umana. Presente in aula anche oggi la madre della vittima. Non escluso, ma difficile che si arrivi già oggi a sentenza, dopo le ringhe dei difensori Emanuele Sergo e Oreste Dominioni. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Grave sofferenza finanziaria per la Chiesa di Trieste, con un bilancio 2024 chiuso con il segno meno. Solo la diocesi ha 4 milioni di debiti in aggiunta a quelli degli altri enti legati alla diocesi. Il vescovo Enrico Trevisi ha commentato: sono stati fatti investimenti immobiliari onerosi. Come sta la diocesi di Trieste? I conti come stanno? Beh, sono un po' in sofferenza, però la diocesi è composta da tanti enti, per cui c'è l'ente diocesi che ha una sua configurazione giuridica, poi ci sono altri enti diocesani, poi ci sono tutte le parrocchie. Non abbiamo un bilancio consolidato dove si mettono tutti insieme. La diocesi ha più di 4 milioni di debiti, con mutui, con prestiti che abbiamo. Avevo sentito parlare di un buco da 16 milioni di euro, possibile? Allora, è difficile, perché poi ci sono anche dei mutui che sono coperti magari anche da ristori progettati in questa maniera. E con tutte le parrocchie, tutti questi enti, ripeto, non ce l'abbiamo. Evidentemente ci sono degli enti che sono, come la diocesi e anche altri enti, che sono indebitati di alcuni milioni di euro. Se non li sommiamo tutti, la cifra è consistente, ma anche questa intervista è per essere trasparenti, ma non siamo in grado di fare questo bilancio di tutti gli enti, delle 60 parrocchie insieme e così via. Però ci stiamo provando, non voglio fare nessuna polemica, per cui quello che stiamo cercando di fare è di rilanciare il fare del bene e l'essere dentro una città con tante modalità in tanti settori, che non sono soltanto quelli della Caritas, ma sono quelli della pastorale ordinaria, della diocesi, delle parrocchie, e cerchiamo di fare questo. Sono state fatte delle acquisizioni onerose a debito, come per esempio il convento di Santa Maria Maggiore, piuttosto che la ristrutturazione del complesso di San Rocco qui vicino a Via Cavana, con una cappella dove l'acquisizione e ristrutturazione è costata più di 3 milioni di euro. Per cui queste cose, con i tassi di interesse che sono cresciuti, questi mutui sono stati un peso per la diocesi che effettivamente mi ha molto preoccupato. E di questo, fin dall'inizio, con tutti i vari organismi ecclesiali, tutti i sacerdoti, immediatamente abbiamo condiviso queste preoccupazioni. Da Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e militari della Guardia di Finanza di Gorizia hanno scoperto una frode fiscale nel settore del commercio delle vetture. È stato accertato dalla DM che una società di capitali che opera nella compravendita di auto di lusso aveva omesso di dichiarare all'erario cessioni di auto per 3.800.000 euro e imposta IVA per altri 800.000 euro. Le attività di indagine sono state quindi affidate alle Fiamme Gialle, il nucleo di polizia economico-finanziaria di Gorizia ha portato alla denuncia del legale rappresentante della società isontina, un cittadino rumeno, per l'ipotesi di omessa dichiarazione fiscale. Rispettare il diritto di sciopero dei lavoratori di Chitovaisenfels di Fusine senza rischio di pressioni o ritorsioni, lo scrivono Fabio Belzer e Liduino D'Orlando delle segreterie territoriali FIOM, CGL, FIM, CISL in un comunicato che è stato affisso nella storica acciaieria di Fusine specializzata nella produzione di catene e sistemi di sollevamento a seguito di quelle che sono state pratiche intimidatorie, si legge nella nota messa in atto dai responsabili di reparto nei confronti dei lavoratori indotti a prestare servizio al di fuori del normale orario di lavoro, in particolare ore di straordinario, mentre è in vigore il blocco degli straordinari in tutto il paese nell'ambito dell'avvertenza sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. La Polizia di Stato compie 173 anni, già da ieri, ancora oggi sono in calendario cerimonie anche in regione con la diffusione dei dati dell'attività 2024. Siamo andati a Pordenone. Ha scelto Cinema Zero il questore della provincia di Pordenone, Giuseppe Solimene, per celebrare il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato in una città di cultura e sicurezza che si prepara all'appuntamento del 2027. Il questore Solimene. Cultura e sicurezza vanno nella stessa direzione. Pordenone, capitale della cultura nel 2027, e sicurezza. Ripristiniamo il discorso della sicurezza in un territorio fertile sotto questo punto di vista. In Sala Grande la cerimonia celebrativa, la presenza delle autorità con la consegna degli encomi al personale della polizia e dei riconoscimenti a cittadine e cittadini che si sono distinti. Nel solco del principio esserci sempre, la giornata è stata anche occasione per un bilancio del lavoro svolto. Il questore. Abbiamo lavorato soprattutto in ambito prevenzione e do un dato importante, per esempio l'accompagnamento degli stranieri irregolari alla frontiera, siamo nell'ordine di 70 situazioni di questo genere e soprattutto nel controllo del territorio, quindi abbiamo intensificato il servizio di volante, sono aumentati gli arresti e è aumentata anche la sostanza stupefacente sequestrata, siamo a oltre 5 kg di cocaina pura, hashish e altre sostanze stupefacenti con un denaro sequestrato, quindi provento di reato in tal senso di circa 70.000 euro. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche la Questura di Udine ha presentato oggi dati della sua attività sul territorio, a partire dalle oltre 1.500 denunce ricevute, tra cui ha individuato quasi 750 responsabili, 266 gli arresti, più di 1.600 le denunce a piede libero. Spicca il numero di oltre 1.300 denunce acquisite nel posto fisso dell'ospedale e le migliaia di casi di sequestro di stupefacenti. 20.000 passaporti rilasciati o rinnovati, permessi di soggiorno rilasciati o aggiornati sono stati circa 12.200, le pratiche respinte 291. La polizia di frontiera ha controllato più di 105.000 persone, 655 gli stranieri irregolari rintracciati, 27 gli arresti, 75 gli indagati. La stradale ha inflitto quasi 13.000 contravvenzioni, di cui 72 per guida in stato di ebbrezza, e rilevato 400 incidenti, di cui 4 con esito mortale. 116 i veicoli sequestrati, oltre 500 le patenti ritirate, 35 i servizi di contrasto delle stragi del sabato sera, quasi 50.000 i documenti verificati dalla Polfer a bordo dei treni, 7 gli arresti e 95 le denunce, 26 minori rintracciati e affidati e più di 4.000 i servizi di vigilanza nelle stazioni. La Polizia Postale ha ricevuto oltre 100 denunce, di cui un terzo per reati patrimoniali online, 160 siti web controllati, 16 le perquisizioni per reati informatici. Ora uno sguardo al meteo, il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature delle 11, a Trieste 12 gradi, a Gorizia, Udine e Pordenone 14, a Forni di Sopra, Tarvisio e Tolmezzo 11 gradi, sul Piancavallo 7, a Sappada 2 gradi, sul Monte Zoncolan 5, sull'Ussari 3, sulla costa Lignano 13 gradi, grado 12. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: cielo variabile, venti di brezze, temperature in lieve aumento. Per domani al mattino cielo poco nuvoloso sulla zona montana, variabile in pianura. Nel pomeriggio cielo variabile su tutta la regione, zero termico in risalita durante il corso della giornata, in serata raggiungerà i 3.000 metri, venti di brezza. Anche l'Università di Udine tra i protagonisti del premio scientifico internazionale Breakthrough Prize 2025, fra i più importanti al mondo nel settore della fisica fondamentale. Il riconoscimento è andato agli esperimenti condotti con l'acceleratore Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, tra cui quello denominato ATLAS, in cui opera un team di scienziati dell'Ateneo Friulano con la sezione locale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Atlas ha contribuito nel 2012 alla scoperta del bosone di Higgs, l'elemento mancante del modello standard, la teoria che spiega l'origine della massa nell'universo. L'Università di Udine è coinvolta da oltre 20 anni nell'esperimento. Il gruppo di ricerca è guidato da Marina Coba, docente di fisica sperimentale. I pericoli legati ai social media e alla polarizzazione delle informazioni sono stati al centro di un seminario organizzato a Gorizia dall'Università di Udine. Nicoletta Vasta dell'Ateneo Friulano è coordinatrice del Laboratorio di Comunicazione Strategica e Nuovi Media CSNM e ci ha illustrato questi pericoli. Il pericolo fondamentale è che molto spesso attraverso narrazioni emotivamente coinvolgenti si veicolano messaggi di cui non si riesce a verificare la veridicità, e quindi le emozioni e la ridondanza di informazioni, il fatto di inondare la piazza pubblica e il dibattito pubblico con informazioni ridondanti, appunto, che vengono normalizzate e quindi elaborate senza senso critico, questo direi è il rischio fondamentale, oltre al fatto che bisogna sapere quali strumenti utilizzare, tipo i fact checkers o comunque insomma delle risorse che aiutano a capire per quanto possibile dove sta diciamo l'inceppo in questo meccanismo, no? E quindi per degli studenti che diventano professionisti della comunicazione direi che questi sono i rischi da conoscere per poterli evitare e per poter invece sfruttare le opportunità di questi mezzi e incentivare il dibattito pubblico, che è fondamentale. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo della serie TV del momento, Adolescence, ambientata in Inghilterra ma universale nel contenuto, la storia di un femminicidio in cui l'assassino ha appena 13 anni, una storia che si ispira a numerosi fatti di cronaca nera. Abbiamo chiesto un commento allo scrittore e professore della scuola media di Chions, Enrico Galliano. Papà! È soltanto un bambino! Papà, io non ho fatto niente! Una famiglia come tante, fino a quando il figlio tredicenne viene accusato di aver ucciso a coltellate una sua coetanea. È Adolescence, una miniserie girata in Inghilterra che ha conquistato il pubblico con oltre 114 milioni di visualizzazioni in meno di un mese dalla sua uscita. Adolescence segue la vita di Jamie, ragazzino introverso e ipersensibile, mentre attraversa i tumulti dell'adolescenza insieme ai suoi amici. Un ritratto permeato di violenza e solitudine, ma anche piccoli momenti di speranza e solidarietà. Non è solo una fiction, si tratta di uno spaccato reale di un certo modo di essere adolescenti e genitori oggi. Enrico Galliano, scrittore e professore alla scuola media dell'Istituto Comprensivo di Chions. Sarebbe bene che portassimo davvero, ma ormai io lo dico da anni, però, cioè non solo io, tutti noi che insegniamo lo diciamo da anni, non si può più aspettare, dobbiamo portare l'educazione all'affettività nelle scuole, ma guardate che gli altri paesi ci guardano inorriditi, perché per loro, i paesi come l'Inghilterra, l'Olanda, la Germania, ci guardano come dire, ma è come se non faceste matematica a scuola, è come se non faceste inglese, italiano. Il fatto che non facciate in modo organico attività per educare i bambini. I femminicidi non cominciano quando il ragazzo di 25 anni prende in mano l'arma per uccidere la sua ex fidanzata. I femminicidi cominciano quando i bambini hanno 5 anni, hanno 6 anni, quando da piccoli non vengono educati al rispetto, a esprimere le proprie emozioni, a esprimere la propria fragilità. E anche a saper riconoscere quando il gruppo, che è una cosa positiva perché rende forti, rende uniti, è bello, si trasforma in branco, che invece è tutto l'opposto. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Incontro a Udine tra l'Agenzia regionale per la lingua friulana, ARLEF, e il Comitato Consultivo Indipendente sulla Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali per stilare il sesto rapporto di Stato sull'attuazione della Convenzione ratificata dall'Italia nel 97 per la tutela di friulano, sloveno e tedesco. Sono stati affrontati aspetti legati alla promozione e protezione dei diritti linguistici con particolare riferimento riferimento all'impiego del friulano nella pubblica amministrazione, nell'istruzione e nei media. Discussi anche temi riguardanti i finanziamenti, la mancata approvazione del messale, lo sviluppo di nuove tecnologie in friulano in aziende private. Il maestro Walter Sivilotti dirigerà la Friuli Venezia Giulia Orchestra per il concerto Zardini Sinfonico nell'appuntamento di chiusura della stagione teatrale di Sacile. Sul palco la rielaborazione del repertorio del compositore pontebano abbinata a testi di poeti che fanno parte della storia culturale friulana come Pierpaolo Pasolini, Novella Cantarutti ed Emilio Nardini. Voce di Alba Anacinovic, al piano Glauco Veniera, Sacile, al teatro Zancanaro alle 20.45. Altri spettacoli, il Teatro Bobbio di Trieste accoglie Intelligenza Musicale interpretato dai Gemelli di Guidonia in scena nella stagione della Contrada oggi alle 20.30. Lo spettacolo di Carlo Amleto tra comicità e musica, sketch e canzoni in cartellone a Trieste al Teatro Miela alle 21. Concerto 2 plus 2 duo concert per l'International Guitar Festival nella Sala Nobile di Palazzo Vivante a Trieste alle 19. A Trieste Hangar Teatri presenta la seconda edizione del Traveste Festival dedicato alla cultura drag in inaugurazione alle 20.30 con Eleganzia. Con album la compagnia Kepler 452 invita a sfogliare pagine di memoria collettiva, individuale, sociale al Teatro Contatto con 4 repliche al Palamostre di Udine a partire da stasera alle 20.30. Parliamo adesso di una mostra d'arte al Palazzo del Fumetto di Pordenone Pafe, in programma l'inaugurazione della mostra Casanova Henriette con le opere dell'artista e fumettista friulano Renato Calligaro, appuntamento alle 18. E si intitola I Magredi, la steppa friulana, il film che racconta un anno trascorso seguendo il ciclo dei prati stabili, le fioriture e il lavoro degli insetti impollinatori, incontrando custodi della memoria e protagonisti dello sviluppo presente e futuro del luogo. La storia evolutiva delle terre magre friulane, la loro biodiversità e il rapporto con le attività dell'uomo costituiscono la trama del documentario realizzato da Ivo Pecile e Marco Virgilio, che sarà proiettato a Pordenone a Cinema Zero alle 20.30, con ospiti in sala i registi. Abbiamo intervistato Virgilio per chiedergli come è nato il progetto. Questo è un ambiente unico nel nord Italia, ce l'abbiamo solo noi, per cui valeva la pena di valorizzarlo al meglio. È stato fatto un anno di lavoro intero, io e Ivo Pecile sul campo per un'infinità di volte, a fare tutte le fioriture, a fare tutti i periodi dell'anno, a intervistare anche degli anziani che si ricordano di come funzionava l'agricoltura un tempo su quelle zone poi abbandonate per far spazio all'agricoltura intensiva. Che cosa l'ha colpita che non si aspettava in questo anno di lavoro? Abbiamo imparato a conoscere tante specie, sia specie floristiche che faunistiche, ma anche le storie per esempio dei personaggi che compaiono nel docufilm, come la pastora transumante Caterina De Boni, che porta le sue pecore sui magredi per cercare poi assieme ad altre realtà del territorio di creare una filiera, collaborazione fra pubblico e privato affinché questi prati si mantengano e continuino a riservare questo enorme tesoro di biodiversità che rappresentano. C'è qualche cosa in particolare che l'ha cambiata, che le ha trasmesso questo lavoro? Siamo abituati spesso a girare in montagna i nostri documentari, lì invece siamo in piena pianura e devo dire, ecco, la vastità di questi spazi colpisce moltissimo. A volte si è abituati a vedere i panorami dalle cime delle montagne, invece lì, nonostante ci si trovi in pianura, spesso in questi enormi letti dei fiumi come il Cellino, il Meduna, il Tagliamento, si ha l'impressione di non vedere la civiltà, di essere in un territorio immenso e quasi disabitato, e quindi è una vastità a cui non si è più abituati. Udine for Safety, promosso da ACI e Regione, propone l'incontro La consapevolezza del rischio, migliore strumento di sicurezza stradale, alla Fondazione Friuli a Udine alle 18.30 in memoria di Pietro Comelli, già comandante della Polizia Stradale, questore di Forlì e di Udine, scomparso prematuramente. Il ciclo Cavana Stories ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta di quella che fu la città notturna per James Joyce e poi la Trieste al di fuori dei confini per le truppe del governo militare alleato. Appuntamento a Trieste con raduno davanti alla farmacia di Piazza Cavana alle 21. Gorizia accoglie una tappa dell'ottava edizione del Festival Treccani e della Lingua Italiana. L'evento da oggi a domenica sarà dedicato alla parola confine. Inizia oggi alle 16.30, si parlerà di arte con Cristiana Collu, di Papi, linea di confine tra fedi religiose e complessità del mondo con Daniele Menozzi e di storia della scienza a cura di Enrico Pedemonte alla Fondazione Carigo. Il digiuno nella Chiesa Ortodossa, regole e tradizioni culinarie è il tema dell'incontro di oggi inserito nella rassegna Trieste, un porto di sapori. Relatore l'archimandrita Gregorio Migliaris, appuntamento alla libreria Ubic di Trieste alle 17.30. Alcuni libri, presentazione di Impara per Aulis, raccolta di poesie di Celso Macora, romance di Zonzo, Centro Culturale Casa Candussi Pasiani alle 18. Il libro La Sindone e Savoia di Bruno Panfili sarà presentato a Trieste al Circolo Ufficiale alle 17. L'USB di Trieste alle 18 al bar libreria Knulp di Trieste presenta l'ultimo libro di Giorgio Cremaschi, Liberal Fascismo, come i liberali distruggono la democrazia e ci portano in guerra. Sono 34 i racconti in una guida non convenzionale per navigare Trieste e i suoi dintorni, inclusi in Atlante Triestino di Massimiliano Penazzi, che sarà presentato a Trieste alla Società Triestina della Vela alle 18. Infine all'ex tipografia Savio di Pordenone alle 18, Cristina Cristofoli presenta Argo, vita segreta di un camper, vecchio camion degli anni 80 salvato da una coppia di viaggiatori. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale in regia Mauro Cumine, Pasquale Nicotra, in redazione Valentina Veneruso, da Maria Spezia e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.